Soul della domenica pomeriggio. E lo speciale set Techno Remember, dedicato ai viaggiatori d'Italia. Vorremmo vedervi sotto la console con le mani al cielo, Revolution. Bruciamo così in questo momento le nostre emozioni. Spettacolo Revolution, i viaggiatori e i sognatori di quest'oggi siete voi. Con le mani al cielo benediciamo questa domenica pomeriggio, famiglia Revolution riunita ancora insieme. Diamo il benvenuto, le mani al cielo, DJ Vulpis! Hey, hey, hey, hey! Revolution! Questo è il teatro Revolution. Domenica 19 aprile 2009. Le mani al tempo Revolution, grazie. Gridare e sognare, DJ Vulpis, vietato non ballare. Pronti a ripartire, viaggiatori d'Italia. Urla libero! Avvicinandosi alla console Revolution. Tutti qua sotto la console, pronti a ripartire con il suono. Le mani al cielo, batterle a tempo, grazie. Questo è lo spettacolo Revolution, la famiglia che si riunisce per ballare. DJ Vulpis, Demo, le mani al cielo! Salutiamo gli amici della barriera, ciao! La famiglia Revolution, ciao! E il viaggio continua. Vulpis DJ ed Emo. Se lo stai ascoltando ci vorrebbero le mani. Ehi, ehi, ehi, ehi. Revolution, Revolution. Tatanka, Airteo, gli artisti Revolution. Possiamo iniziare a battere le mani a tempo, Revolution? Ehi, ehi, ehi, ehi! Tieni il ritmo con le mani! DJ Vulpis! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi! Revolution! Sei! È il tempo. console. Stringiamoci in questo canto libero. Revolution! Grazie, Revolution! Vai con gli Starlight! mettete qua sotto la console. The Dark Side. Le mani a tempo, per favore. Arriveranno anche i CD di DJ Vulpis. Possiamo iniziare a batterle a tempo. Indietro, generazione di sconvolti, grazie. Tra qualche istante arriveranno anche i CD by DJ Vulpi. Cosa succede? Ci siamo spenti? Le mani a tempo, Revolution! Ci avviciniamo alla console. Vogliamo vedervi attaccati a questa console. Vogliamo vedervi alzare le mani al cielo. Vogliamo sentirle battere a tempo. Babylon! Evolution, le mani al cielo, grazie. Iniziamo a fare un coro di anime. Questo è il Teatro Revolution. Le mani a salire, grazie! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi! È la domenica di Torino. Revolution è la famiglia che si riunisce per cominciare il suo viaggio. Set Remember, un applauso! E questo disco lo dedica a Vulpix DJ, demo a tutta la famiglia Revolution. Le mani! Moreno in console. grazie. Questo era dedicato a voi.